50 minuti di riparazioni. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti a tutti quanti a questo primo appuntamento di un nuovo programma che approda oggi su Radio Città Fujiko. E con cui ci troverete qui su Radio Città Fujiko quando, Leo? Beh, ogni venerdì mattina dalle 10.30 alle 11.30, da oggi fino alla fine dei tempi. Beh, oppure un pochino più ristretto fino alla fine. Giugno. Bravo, fino a giugno. Ce la facciamo? Ci sei? Sì, te la senti? Sì, io mi sento forte e chiaro, tu ti senti? Io mi sento benissimo e forse mi sento anche che è il caso di dire come si chiama questo nuovo programma. Vai, dillo. Lo dico io? Lo vuoi dire tu? Lo dico io. Il nostro programma si chiama 50 minuti di riparazioni. Bellissimo. Bello. Un titolo bellissimo. Un titolo chiaro, bellissimo. Diretto. Esatto. Allora, però mettiamo subito le mani avanti, caro Leo, e diciamo che oggi in realtà non si tratta proprio della prima puntata ufficiale. No, è un po' come possiamo definirlo? Un intro, insomma, un non so come intro, sì. Un waiting for. Ti piace? Sì. Un aspettando 50 minuti di riparazioni. Esatto. E infatti è una mezza puntata, nel senso che oggi siamo qua solo per 25 minuti. E quindi oggi si chiamerà 25 minuti di quasi riparazione. Esatto, però andiamo al sodo. Questa è una bella battuta. Questa è una bellissima battuta. Non è neanche scritta, l'ho pensata... Così, è un'improvvisazione di oggi. Comunque, dalla prossima settimana, quindi da venerdì 19 maggio, i minuti saranno 50 effettivi, 50 minuti di riparazione. 50. Ma da dove cominciamo oggi? Beh, magari presentiamoci. Ah, ma magari è una buona idea, presentiamoci. Io sono Giulia Quadrelli. Io sono Leo Merati. E che serio, come l'hai detto serio? Io sono Leo Merati. Leo Merati, come chiamano qui a Bologna. Tutti quanti. No, non Leo. Leo Merati, perché sei di Bergamo, sì. Diciamolo così se si sente un accento strano. Noi naturalmente, solitamente siamo un po' più conosciuti da quei 4-5 che ci conoscono. I nostri parenti ci conoscono, esatto, anche per un progetto che si chiama Narrando Bo, che è un progetto di spettacolo dal vivo di teatro che narra la città di Bologna e le sue storie. E dici, allora cosa ci fai qui tu Giulia? La stessa cosa che ci fai tu. Siamo qui per fare un po' quello che sappiamo fare, però... perché ci ha precettato per l'occasione l'Accademia di Belle Arti di Bologna per narrare, appunto raccontare un grande progetto che dall'Accademia è ideato, creato, realizzato e organizzato, che sta partendo, è partito in realtà da un po' di tempo, ma soprattutto vedrà il suo pieno dell'energia nei prossimi mesi, gli stessi mesi in cui ci troverete qua in radio, su Radio Città Fujiko. Come si chiama questo progettone dell'Accademia di Belle Arti? Beh, chiaramente Riparazioni. Riparazioni. Sono molto preparato. Hai studiato molto molto bene. Ho studiato all'Accademia di Belle Arti di Bologna. No, questo non è vero. Non dare in giro false informazioni. Non è vero. A proposito di Accademia di Belle Arti di Bologna, andiamo a qualcuno che sicuramente ha studiato più di te, perché qui con noi oggi abbiamo come ospite speciale per questa mezza puntata di lancio il professor Daniele Campagnoli. Grande Daniele Campagnoli, docente all'Accademia. Però io non voglio dire di cosa, perché è il caso che lo dica lui, perché è molto difficile. È molto difficile il nome del suo corso. Ciao a tutte e tutti. Il mio corso si chiama Organizzazione e produzione dell'arte mediale per il biennio di didattica dell'arte e mediazione culturale del patrimonio artistico. Ha fatto fatica anche lui, ha dovuto guardare i suoi bigliettini. E allora Daniele è qua con noi per aiutarci a raccontare in linea generale che cos'è il progettone Riparazioni in cui l'Accademia è impegnata adesso, ma in maniera più particolare un po' come nasce e come si svilupperà questo nostro programma, ovvero Leo? 50 minuti di riparazioni. Bravissimo, con cui saremo in onda, lo ripetiamo. Ogni venerdì dalle 10.30 alle 11.30. Partiamo da che cos'è Riparazioni. Che cos'è Riparazioni? Allora... adesso facciamo un attimo i seri, Vuoi dirlo tu, Daniele, lo dico io? Vai tu, Giulia, ti sei preparata, hai studiato. Ho studiato, mi date i crediti, ho studiato. Non quanto Leo, ma ho studiato anche quasi. Io. Quasi, quasi, quasi. Allora, riparazioni, che ha un sottotitolo, si chiama anche Rielaborare ad arte, è un progetto ideato dall'Accademia di Belle Arti di Bologna per il programma PON Metro 1420, ovvero il programma operativo nazionale città metropolitane del Comune di Bologna, che è finanziato dall'Unione Europea ed è dedicato allo sviluppo urbano sostenibile. Ma sei stata bravissima, cioè hai imparato tutto questo a memoria, non è che stavi leggendo? L'ho imparato a memoria, però ho studiato perché è un progetto importante, che nasce dall'Accademia come risposta creativa alle problematiche del territorio, dell'area urbana, del centro storico di Bologna, in cui appunto l'Accademia, ma anche l'università, si trovano e che, come forse le persone all'ascolto sanno, perché conosceranno un po' la nostra città, è una zona di Bologna piuttosto particolare. Particolare, sì. Sì, sì, sì. Bellissima. No. Bellissima, ma... Unica, tutte queste cose, ma... che si possono dire di cose molto belle, però anche un po' caratterizzata da dei contrasti, possiamo dire. Diciamo, è una zona in cui convivono in un habitat anche piuttosto ristretto, da un lato dei luoghi di grande valore culturale, artistico, istituzionale, sale studio, facoltà, però dall'altra parte anche luoghi di forte degrado, sì, marginalità, dai, diciamo. C'è un po' di difficoltà. Esatto. Esatto. Quindi l'Accademia propone, crea questo progetto di riparazioni che vuole andare ad abitare in maniera un po' diversa questo quartiere. Daniele, ce ne vuoi un po' parlare? Sì, diciamo che l'Accademia in qualche modo esce proprio dai propri spazi istituzionali, dalle aree di insegnamento, e cerca di invadere, di abitare in particolare la piazzetta fuori dall'Accademia, che si chiama Piazzetta Roberto Raviola. Che in Raviola. Conosco. Raviola, tu la conosci? Io la conosco, sì, cioè, ci stiamo lavorando. Ci stiamo, insomma, lavorando, ma non in tanti la conoscono. Non in tanti, è diciamo un sottonucleo della Piazza Puntoni, che è più conosciuta. Piazza non sanno Puntoni. Di conoscerla probabilmente in molti, la conoscono senza sapere. E come interviene l'Accademia un po' sul quartiere? Come esce dalle sue, esatto, aule l'Accademia? Allora, innanzitutto ci sarà un programma di laboratori e di eventi che si terranno proprio nella piazzetta, che in qualche modo coinvolgono i vari corsi dell'Accademia. Ci saranno laboratori di fashion design, laboratori di fumetto, ci sarà una mostra... Sono tutta una serie di azioni che, oltre ai laboratori, poi andranno a, diciamo, puntellare questi due mesi di iniziative. Ci sono già delle conferenze che, esatto, sono già iniziate. Che sono partite già nelle settimane scorse. Esatto. Partite alla grande, credo, no? Esatto. Sì, abbiamo avuto dei gran nomi dal mondo dell'arte, avremo più avanti altri importantissimi personaggi dal cinema, dal teatro. Esatto. Vabbè, e poi uno degli interventi del progetto, possiamo dire, è la nostra radio. La nostra radio, sì. Siamo 50. Forse il fulcro di questo progetto è la nostra radio. Una, no? Delle azioni, no, più... più durature, questo è vero. Una delle più costanti. Costanti. Come dice Leo, il fulcro, perché noi, no, ci, beh, diamo... era una gag. Noi siamo a servizio, siamo un megafono di riparazioni. Vogliamo portarlo ancora più fuori. L'Accademia esce dall'Accademia, noi portiamo l'Accademia anche in giro per la città, anche fuori dal quartiere, e magari gli altri quartieri possono venire a osservare quello che succede qua. Però quello che possiamo dire è che la radio stessa ha luogo, cioè viene registrata, le nostre puntate vengono registrate proprio nel cuore del quartiere dell'Accademia dell'Università, ovvero in quell'angolino cruciale che c'è fra Via del Guasto e Via Belle Arti. Bravo, anche su questo hai studiato, anche perché devi venire a registrare. Bellissimo, un posto magnifico. Tra l'altro, in cui le pareti sono di... Sono... Di vetro. Cioè, non so se di vetro, trasparente, ci vedrete in diretta e sarà come ho detto prima, bellissimo. Però, a parte dire che sarà bellissimo, possiamo dire che se per caso siete curiosi, vi diamo questa piccola, questo piccolo segreto: le registrazioni vengono fatte in questo spazio il martedì pomeriggio, a partire dalla prossima settimana. Quindi, se curiosi o persone che vogliono sapere cosa stiamo combinando hanno voglia di passare e vederci lì, ci trovano. Per tutti gli altri, nel corso delle puntate, se avete voglia di interagire con il nostro racconto di riparazioni e del quartiere dell'Accademia, potete invece mandarci una mail a riparazioni@ababo, come Accademia di Belle Arti di Bologna.it, riparazioni@ababo.it. Giulia, scusa, però adesso abbiamo parlato un sacco, forse è l'ora di ascoltare un po' di musica. È arrivato il momento di un po' di musica. Vai, lancia tu che l'hai scelto tu questo Lancio pezzo. Io. Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica con Beam Me Up dei Midnight Magic. Incredibile, bello questo, l'ho scelto bellissimo. Io di solito non ti piacciono molto, mai molto molto brava, molto beat, si può dire, no, funky, no, non importa. si può dire quello che vuoi, ma procediamo. Quindi scusa, per essere preciso, quindi il martedì io posso vedere la gente che passa dietro la vetrina, e il venerdì la gente può ascoltarmi in radio. Bellissimo. È bello questo. Due occasioni in una settimana per poter interagire con noi, per poter riparare con noi. Adesso però, per così come buon auspicio inaugurale, per varare questa nave. Madonna, sei veramente tipo lo Spinoza. Spacchi. Proprio lo stappo pam. Lo stappo pam. Chi c'è per stappare? Già c'è stato Daniele. Daniele rimane con noi fino alla fine della mezza puntata, però abbiamo un piccolo cameo, un piccolo cadeau della direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, che è un po', diciamo, il motivo coordinatore di tutta questa iniziativa, di questo grande progetto di riparazioni, che ci racconta rapidamente, con parole sue, ci fa un saluto per dirci di che cosa si tratta questo grande progetto. Cristina Francucci. Riparazioni, rielaborare ad arte, è un progetto che nasce da un'esigenza, cioè quella di animare un luogo attraversato spesso da situazioni appunto di fragilità e a volte anche di grande marginalità. Il luogo di cui sto parlando è la piazzetta Roberto Raviola, che si trova proprio davanti all'Accademia di Belle Arti di Bologna e davanti alla Pinacoteca Nazionale. L'idea è quella proprio, con questo progetto, di contrastare con azioni artistiche, azioni creative, il degrado, restituendo ai cittadini, agli abitanti di quella zona, del quartiere, uno spazio di socialità e di cultura. Il titolo Riparazioni si ispira all'arte giapponese del kintsugi, che consiste nel riparare degli oggetti che si sono rotti con una resina d'oro, che mette in risalto appunto questa rottura, queste fratture. E quindi la fragilità viene esaltata e non nascosta. Il significato metaforico di questa tecnica richiama proprio i concetti di resilienza e di rinascita, a partire proprio da quelle fratture. Infatti, solo se diventano visibili e condivisibili possono essere chiaramente superate. Di conseguenza, dunque, uno degli obiettivi proprio del progetto è proprio la sensibilizzazione degli studenti e dei cittadini sulle problematiche sociali. L'idea è quella che attraverso azioni culturali si possano quindi saldare e ricucire degli strappi sociali anche molto profondi, portando quindi arte, bellezza nella vita di tutti. Grazie a Cristina Francucci, che ci ha raccontato il progetto Riparazioni dal suo punto di vista, ci ha illuminato con alcune parole. È stato un gran baro. Esatto. Ormai questo è il sottotitolo della puntata, 25 minuti di riparazioni, il varo. Il varo, bello. Adesso però che abbiamo parlato del progetto riparazioni in generale, andiamo più nello specifico e arriviamo a raccontare un po' la ciccia della nostra trasmissione radiofonica. Sì, del motivo per cui siamo qui, per cui ci state ascoltando e ci ascolterete sicuramente. Per le prossime settimane, per i prossimi due mesi. Daniele, lo vogliamo raccontare insieme, dato che questa è una trasmissione particolare. Perché è una trasmissione particolare 50 minuti di riparazioni? Beh, diciamo che la primissima particolarità è che è una trasmissione che nasce coinvolgendo direttamente studentesse e studenti, quindi noi oggi siamo qua dopo in realtà mesi e mesi di lavoro che hanno coinvolto in primis appunto il gruppone di 30 ragazze e ragazzi che frequentavano il mio corso all'inizio dell'anno, e che con loro praticamente abbiamo avuto un po' questa missione di costruire, di ideare interamente il progetto del programma, di capire che cosa raccontare, che identità dare anche a questo programma. E infatti forse prima ancora di andare a raccontare come abbiamo lavorato, come avete lavorato, poi siamo arrivati anche noi, possiamo subito inaugurare il racconto sentendo alcune delle voci di questi ragazzi. Degli studenti e delle studentesse. Ragazzi e degli studenti a cui tu hai posto una domanda alla fine del corso. Sì, dopo tutto il lavoro fatto appunto di osservazione, di indagine, di tentativo di dar voce al quartiere, quello che poi ci siamo chiesti, avendo appunto conosciuto a contatto stretto con le persone e i luoghi la realtà intorno all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ho chiesto a questo punto che cosa vorreste voi riparare nel quartiere e come. E sentiamo cosa ti hanno risposto. Vorrei riparare la mancanza di verde della zona, spargendo semi a casaccio affinché possano emergere germogli dalle fughe del selciato, riempiendo di fioriere il passaggio pedonale ed anche le infinite grate delle finestre degli edifici storici, creando nuove aiuole per ulteriori alberi. Vorrei riparare il quartiere per renderlo più umano e più vicino agli ultimi. Solo attraverso l'incontro, il dialogo, possiamo conoscere storie di vita nuove e a quel punto sentirli più vicino a noi. Vorrei riparare l'irrefrenabile gentrificazione che sta subendo da anni questa parte di città, obbligandoci a mostrare una finta facciata borghese che non ci appartiene e che non è mai appartenuta a questo quartiere. Se potessi, riparerei l'impossibilità di accedere liberamente al patrimonio artistico dell'Accademia, dando a tutti l'opportunità di poterne fruire, soprattutto trovando uno spazio in cui possa essere custodito. Spargendo semi a casaccio affinché possano emergere germogli dalle fughe del selciato. Ecco, abbiamo sentito alcune delle loro voci. Grazie alle ragazze e ragazzi che hanno registrato. Grazie, li ringraziamo, Daniele. Li salutiamo. E Daniele, se adesso vogliamo raccontare un po' come si è svolto questo corso, che cosa avete fatto insieme e poi cosa abbiamo fatto insieme, perché a un certo punto siamo arrivati anche noi. Il corso, diciamo, è nato anche come idea proprio ancora prima di trovarmi in aula con le studentesse e gli studenti, perché appunto la direttrice dell'Accademia, Cristina Francucci, aveva già in mente questa azione proprio di costruire una radio come una sorta di contenitore che facesse parte proprio del progetto Riparazioni. E l'obiettivo era un po' quello di appunto dare la possibilità alle varie identità del quartiere di emergere, di incontrarsi, accogliendo appunto le voci delle persone che vivono in vario modo il quartiere. Ovviamente è un quartiere molto particolare, da lavoratrici e lavoratori, gli abitanti, le studentesse e gli studenti dell'Accademia e dell'Università. Quindi ci sono molti intrecci interessanti. Di vite, di esperienze. Esatto. E, diciamo, la prima cosa che noi abbiamo fatto nel corso, che io mi sono chiesto e ho proposto anche alle studentesse e agli studenti, è stata una sorta di mappatura. Cioè, prima lo abbiamo conosciuto. Fatta questa mappatura, abbiamo cercato di individuare insieme alcune tematiche che potevano essere poi delle direzioni di senso, dei fili conduttori da proporre poi alle persone che successivamente abbiamo coinvolto come voci del quartiere, quindi con le interviste. Scusa, adesso... So già cosa mi vuoi dire. Dai, vuoi un po' di musica? Un pezzo, sì, un piccolo pezzo un musicale. Dillo tu. Home Caribou. Bello. She does just what she pleases, 'cause she's happy on her own. And she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. mess with everything. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home. Riparerei il tempo perso, ponendo più cura negli spazi per i momenti di ozio, con più panchine comode, con migliori sostegni lombari e dei piccoli scorci di natura per potersi godere al meglio lo splen di una pausa sigaretta o di una pausa di qualunque tipo, momenti da non sottovalutare nell'affanno dello stress cittadino. Migliorerei la qualità della movida notturna, come creando un calendario di eventi culturali serali nelle zone meno frequentate, cercando così di ottenere una continuità con quelle invece abitualmente affollate. Più panchine comode, con migliori sostegni lombari. Io riparerei il quartiere inserendo delle fontanelle di acqua potabile o magari dei distributori di acqua sparsi per il quartiere a prezzi irrisori per rimboccare le borracce. Un'altra riparazione potrebbe essere sistemare le colonnine per la manutenzione delle bici. Vorrei più equilibrio tra il giorno e la notte, tra l'affollamento e la desolazione. Dovrebbero esserci laboratori creativi, sportelli d'ascolto e tavoli di incontro aperti a tutti gli abitanti del quartiere, creando così un luogo di incontro, di dialogo e ascolto. Con più panchine comode, con migliori sostegni lombari e dei piccoli scorci di natura. Ed eccoci qua, abbiamo sentito ancora un pochino di voce dei nostri studenti, studenti e studentesse del corso di Daniele Campagnoli dell'Accademia di Belle Arti. Comunque, andiamo avanti. Quindi gli aspetti che le studentesse e gli studenti hanno un po' individuato anche passeggiando, hanno fatto delle passeggiate esplorative, sì, di delle strade. Si sono un po' interrogati sul concetto di abitare il quartiere, abitare gli spazi, sulla dimensione dell'interno e l'esterno, le realtà che custodiscono dei patrimoni, quindi le varie identità di musei o la Pinacoteca Nazionale di Bologna, i musei universitari. Hanno avuto anche, diciamo, un'attenzione su tutta la dimensione dello studio, lo studiare, il conoscere, il coltivare delle conoscenze. Quello che vivono tutti i giorni. Esatto, in prima persona, anche dei loro colleghi delle università. Ovviamente altro, diciamo, sguardo immediato è il tema dell'incontrarsi, i le piazze, in cui ci si i bar, trova da queste parti. E quindi in qualche modo ultimo tassello anche che alcuni di loro sono stati colpiti anche dalle targhe che incontravano per la strada, dai graffiti e quindi sono andati un po' a ricostruire le memorie del quartiere. Anche storiche, che sono ovviamente importanti in questa zona, ne segnano molto anche l'identità. C'è una stratificazione, diciamo, negli anni e nei secoli che è molto interessante. Quindi con tutto questo lavoro, diciamo, dalle tematiche poi siamo andati a costruire i contenitori per ospitare delle voci, quindi a quel punto la palla è andata in mano più alle persone che abbiamo cercato di coinvolgere, andando un po' nei bar, per strada, personaggi, frequentatori, che incontreranno gli ascoltatori nelle singole puntate. Quindi abbiamo costruito poi le puntate e in realtà qui ho lasciato un po' il testimone proprio a voi, a Giulia e Leo, perché il corso si è concluso con un workshop condotto proprio da voi. Da noi due, in cui abbiamo conosciuto alcuni degli studenti, alcune delle studentesse del tuo corso, sì, che hanno costituito con noi una piccola redazione, possiamo dire. Sì, è il gruppo che poi ha dato vita effettivamente alle puntate che appunto nei prossimi mesi conoscerete. Oggi non sono qua con noi, li salutiamo. Salutiamo tutti quanti. Diciamo anche i loro nomi magari. Vai, i loro nomi. Li dico io. Dilli tu, dai. Come stavi per dire, li leggi tu? No, li dici tu a memoria, li conosciamo molto bene. No, c'è Grande Diana Cava, Jacopo Cotalini, Maria Rosa Cuccitto, Daniele Di Feo, Chiara Mascellani, Neva Reali, Valeria Scardino, Camilla Sollazzo e Francesco Zanlungo. Li salutiamo di nuovo, non vediamo l'ora di averli qua con noi. Saranno qui con noi, li ascolterete, hanno delle voci molto più belle Vabbè, adesso bellissime, Leo, non ci buttiamo giù comunque. Avrete modo anche di vederli se passate a trovarci. Se passate il martedì in Via Belle Arti. Se no, sentirete le loro voci il venerdì mattina dalle 10.30 alle 11.30. Andiamo un po' a chiudere raccontando quali saranno, quando saranno le nostre puntate con cui ci potrete ascoltare nei prossimi mesi. La prossima puntata sarà venerdì 19 maggio, poi avremo una puntata venerdì 26 maggio, una il venerdì 9 giugno, venerdì 16 giugno, venerdì 23 giugno e venerdì 30 giugno. Beh, queste comunque sono tutte informazioni che trovate sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, www.ababo.it. Possiamo dire però aggiungere, perché così ci saranno delle piccole chicche. Ci saranno delle piccole chicche, delle caramelle, delle sorprese, che saranno delle puntate in diretta, non di venerdì, ma di volta in volta vi diremo in che giorno, perché saranno in concomitanza di alcuni workshop e laboratori che saranno proprio nella piazzetta Roberto Raviola davanti all'Accademia di Belle Arti e che noi narreremo, racconteremo in diretta. La prima di queste però, attenzione perché è prestissimo, è già giovedì 18 maggio, cioè la prossima settimana. È già la prossima settimana. Esatto. E seguirà il laboratorio Ritessere ad Arte a cura del corso di Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti, quindi troverete studentesse e studenti che, per chi vorrà portare degli abiti vecchi consumati, li riporteranno in vita con tessiture, tecniche di decoro, di ricamo, che riusciranno a trasformare i vostri abiti in qualche cosa di nuovo. Quindi se volete vi aspettiamo lì, oppure vi aspettiamo in onda dalle 18 alle 19 per su la Radio nostra Città Fujiko. Sì, comunque, come hai detto bene tu, caro Leo, tutte queste informazioni le potete trovare sul sito dell'Accademia www.ababo.it. E direi che i nostri 25 minuti, la nostra mezza puntata di riparazioni è per anche oggi finita, giustamente. Giunge al termine, anche perché non vogliamo poi spoilerare tutto quello che succederà nelle prossime puntate. Che sarà imperdibile. Che saranno imperdibili e che potrete ascoltare, ve lo ricordiamo, tutti i venerdì dalle 10.30 alle 11.30. Bravissimo. Solo su Radio Città Fujiko. Quindi non possiamo far altro che darvi appuntamento alla prossima settimana con 50 minuti di riparazione, ma anche già giovedì 18 per la prima diretta in occasione del nostro primo laboratorio di riparazioni. Salutiamo Daniele Campagnoli, che ciao, è stato Daniel qua con noi oggi. Ciao, grazie. Salutiamo chi ci ha ascoltato, speriamo che sarete con noi anche nelle prossime puntate. Saluto anche te, Leo. Ciao, Giulia. Ciao, Leo. E adesso un po' di voci dei ragazzi. Però. Vi salutiamo con le voci dei ragazzi. Alla prossima settimana. Ciao. Ciao. Di questo quartiere così ricco e variegato, quello che necessita di riparazione è il nostro sguardo. Veloce e basso, guarda l'asfalto, schiva il buco, la stagnola. Ma se all'azione del camminare abbino quella dell'osservare, allora davvero vedo il quartiere. Allora Accademia ti propongo, ripariamoci e azioniamoci. Usciamo noi con lezioni all'aperto e facciamo entrare tutti con nuove opinioni, senza distinzioni, voci uniche che tutto l'anno vorremmo sentire. Quello che vorrei riparare è la mancanza di luoghi di unione nelle pause pranzo, per chi non ha le possibilità tempistiche di tornare a casa. E avere un supporto nel quartiere in cui potersi ritrovare in quei momenti potrebbe risultare utile. Questo, ad esempio, attraverso l'installazione di panche e legno nelle piazze, oppure creando un luogo simile alla realtà di una vecchia osteria di quartiere. Riparerai il rapporto con l'accessibilità ai luoghi di cultura, che permettono uno scambio di conoscenze e creatività, e lo farei con la creazione di luoghi appositi che permettono in modo gratuito di conoscersi, oppure tramite una creazione di laboratori didattici e atelier. Quello che necessita di riparazione è il nostro sguardo.